哦又一样， 啊又一样，哈哈，啊又一样，sopra scrivi in i gambe, io me me, in corsia, in corsia che passa la distribuzione, mi duole, hey.Mangiano un platano bollito esplicito e contano gli anni in cui gli altri non lavorano. Possiedono svariati archi di tempo da smarrire. Stanno alla berlina tutto il giorno per tre lire. Screpitano, scroccano coppo a chi lo spacca sulla spiaggia con il taglio in faccia. Mordono labbra e trombe e non ne mordono mai. A meno che non si sia rotta la cinghia. Distaccati dal mondo perché è tutto reale, perché è troppo normale. Sempre in briga col mondo, soffrono il mal di mare, ma non sanno nuotare né restare un minuto senza il proprio costume. Senza trucco di scena non funziona, non cammina, non fa un metro senza una tachipirina. Un massaggio cardiaco nei dintorni del tatuaggio, il tribale come donne che rincorrono zanzare. Mi spaventa il tuo rompermi coglioni, il tuo darmi addosso. Ti vengo addosso, tu mi aggredisci, ti spingo e poi me ne pento, ti ho sporcato l'abitino di Pinco. Mi spaventa il tuo rompermi coglioni, il tuo darmi addosso. Ti vengo addosso, tu mi aggredisci, ti spingo e poi me ne pento, ti ho sporcato l'abitino. Soffro di una malattia cronica, la critica la opero, mi adopero per non subirla. Sono recidivo, dalla cura alla cultura non ho avuto segni di migliorare. Di classe porta merla, la corona cascata all'audizione. Ho problemi di dizione, ma hai preso una lezione. Cultura e aver ragione, la cura è redenzione. Ma credere d'aver ragione è superstizione. Ignoranza è materia d'esame, disciplina d'indirizzo è un nostro diritto. È facoltà di non volerne sapere, di pagare l'indennizzo e le cose che non utilizzo. Ignoranza è materia d'esame, disciplina d'indirizzo è un nostro diritto. È facoltà di non volerne sapere, di pagare l'indennizzo e le cose che non utilizzo.